Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Mi torna in mente spesso in queste settimane una bellissima canzone della mia adolescenza, di Edoardo Bennato, L'isola che non c'è. Noi vogliamo continuare a cercare, a combattere contro i pirati del conformismo, del pensiero unico, della rassegnazione, dell'opportunismo, dell'affarismo politico, dell'indifferenza e della paura. Sono convinto, insieme, da qua, possiamo raggiungere l'isola che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te. Porta all'isola che non c'è. Un po' di poesia, un po' di speranza, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, almeno questo nelle parole di Stefano Fassina, che sapete di recente ha lasciato il PD e probabilmente in questa prospettiva che lui intravede di una nuova strada della sinistra più radicale italiana e anche nel dopo voto che c'è stato in Grecia, intravede la possibilità quindi di raggiungere l'isola che non c'è. Quindi abbiamo anche accontentato rimettendo la canzone di Bennato, che è quella che gli veniva in mente, ma di cose di questo tipo parleremo, non so di quanta speranza, sicuramente di concretezza a proposito della Grecia, anche se nessuno ha ancora capito quali saranno le vere conseguenze e per la Grecia e per l'Europa dopo questo no al referendum. Comunque naturalmente ci soffermeremo sull'analisi del voto e anche ci collegheremo con direttamente con Atene per capire come è cambiato il clima da prima del referendum a oggi. Parleremo anche di De Luca, Vincenzo De Luca, che si è insediato ufficialmente come presidente della Regione Campania dopo che sapete era stato sospeso la legge Severino, poi è stata sospesa la sospensione, ha presentato la sua giunta 6 donne e 2 uomini, quindi ha mantenuto la quota azzurra e ci saranno anche i mondiali femminili, hanno vinto gli Stati Uniti sul Giappone e c'è spazio anche per naturalmente il Papa, che nel suo viaggio in America Latina oggi ha fatto un bagno di folla in Ecuador, dovrebbe tenere una messa, adesso non so se è ancora in corso, se deve cominciare, ma insomma pare che sia davanti a 1 milione di persone, c'erano cori da stadio. Però mentre voi fate le vostre riflessioni, vi ricordo che avete sempre la possibilità di scrivere i vostri commenti sulle notizie del giorno sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia attraverso i messaggi al 349-238-6666. Vi chiederei come input stasera: vi aspettavate la vittoria del no al referendum greco e soprattutto cosa vi aspettate adesso? Giornata. Grecia, dopo le dimissioni di Varoufakis, Tsipras assicura che ci sono nuove proposte del governo ellenico e la Merkel fa sapere che la porta resta aperta. Domani alle 13 si riunisce l'Eurogruppo. Borsa e crisi greca, male tutti i mercati, crolla Piazza Affari, ma Padoan rassicura: nessun rischio per l'Italia che fa le riforme. Campania De Luca presenta la sua giunta, 2 uomini e 6 donne, il vicepresidente è Bonavitacola. Dobbiamo far diventare la Campania, dice, la prima regione d'Italia. Il viaggio del Papa in America Latina, secondo giorno in Ecuador, folla oceanica per la messa. Tragedia sulla 4, esplode una gomma, si fermano e vengono travolti da un camion, 2 morti tra Trezzo e Capriate, vicino Bergamo. Calcio, mondiale femminile in Canada, gli Stati Uniti conquistano contro il Giappone la Coppa del Mondo. Per la Juventus, Agnelli apre alla cessione di Pogba. E per il ciclismo, storico al Tour de France, fa il suo esordio la Safety Car. Naturalmente partiamo dalla Grecia del dopo voto, ha vinto il no, lo sapete, dopo il colpo iniziale per le istituzioni europee, per i leader europei, l'Europa si interroga, mentre il ministro ellenico delle finanze Varoufakis si è dimesso per facilitare nuove trattative tra la Grecia e i suoi creditori, si è praticamente sacrificato e domani ci sarà un atteso Eurogruppo alle 13, intanto oggi c'è stato un incontro bilaterale tra la cancelliera Merkel e il presidente francese Hollande, alla fine della quale la cancelliera tedesca ha detto le condizioni per aprire nuovi negoziati con la Grecia non ci sono ancora, aspettiamo proposte precise da parte del premier greco, aggiungendo che la porta resta aperta, Sergio Nava. Quindi insomma spiragli, più che spiragli probabilmente. Diciamo che sì, c'è anche una tattica in qualche modo, se vogliamo, di attesa, perché insomma la Germania oggi non aveva lanciato segnali così concilianti, poi c'è stato un colloquio telefonico tra la cancelliera Merkel e Alexis Tsipras. Probabilmente Tsipras ha promesso, ha garantito ad Angela Merkel che domani la Grecia si presenterà a Bruxelles con una proposta concreta da discutere, prima all'Eurogruppo, poi all'Euro Summit dei 19 leader della zona euro, e di conseguenza la Merkel ha un po' ammorbidito e ha fatto anche la posizione, ha fatto anche fronte comune con François Hollande. In sintesi il messaggio è stato: rispettiamo il voto greco, lasciamo le porte aperte al negoziato, ma ci aspettiamo proposte serie e precise su un programma che riporti la Grecia alla crescita. Ed entrambi, sia Merkel che Hollande, hanno detto che bisogna chiudere, bisogna arrivare a una soluzione questa settimana. Quindi ora la palla nel campo greco e domani a Bruxelles si vedrà effettivamente se ci sono i margini per tornare su una strada, su un'intesa, se vogliamo, tra Europa e Grecia. A domani allora, Sergio Nava, grazie. Intanto, per eventuali conseguenze sull'Italia, il ministro dell'economia Padoan ha rassicurato: nessun rischio per l'Italia che fa le riforme. Io ho sempre detto, come il governo continua a dire, i cosiddetti fondamentali dell'economia italiana si sono molto rafforzati, quindi è chiaro che c'è un po' di volatilità sui mercati, ma non c'è nessun rischio per l'Italia che sta facendo le riforme, e questa è la via maestra anche dal punto di vista finanziario. Questo ha detto il ministro Padoan stasera al TG5, e sentiamo le ripercussioni del voto greco su borse e spread. La prima attesa chiusura di seduta di borsa dopo la schiacciante vittoria del no in Grecia ha visto i listini europei in rosso e spread in rialzo, ma senza le vendite incontrollate e il panico che qualcuno poteva aspettarsi. Debole anche Wall Street, che riesce comunque a limitare le perdite a pochi decimi. In Europa i listini hanno chiuso vicini ai minimi di giornata. Parigi è andata sotto del 2,01%, Francoforte dell'1,52%, Londra ha limitato le perdite ad un meno 0,76%. A soffrire di più è stata Piazza Affari, che ha fatto peggio degli altri anche a causa della maggiore esposizione verso i titoli finanziari, che oggi, come lunedì scorso, sono finiti nel vortice delle vendite. Alla fine il FTSE MIB ha lasciato sul terreno il 4,03%, scendendo ai minimi da due mesi. Tra le banche la peggiore è stata Monte dei Paschi, meno 11,51%, seguita dal Banco Popolare, meno 6,59%, Mediolanum e UBI, meno 6,55%. Non si è registrata per ora la temuta corsa del debito italiano, anche se lo spread BTP Bund ha chiuso in netto rialzo a 162 punti base dai 145 di venerdì, con il tasso al 2,38%. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di primo mattino il faccia a faccia tra Renzi e il ministro dell'economia Padoan. Sul tavolo gli scenari futuri dopo il no dei greci e le strategie in vista dei vertici straordinari di domani. Quindi la posizione del governo affidata alla pagina Facebook del Premier. Il cantiere dell'Europa non è più rinviabile, dice Renzi, serve politica, non solo parametri. Se restiamo fermi, prigionieri di regolamenti e burocrazie, l'Europa è finita. Parole queste tuttavia sommerse dalle critiche dell'opposizione. Così Brunetta, Forza Italia. Abbiamo bisogno di un accordo, ma un accordo che sia all'interno di una revisione complessiva dell'idea di Europa. Basta soldi alla Grecia e alle banche tedesche, dice Salvini. Avanti ora con il referendum sull'euro, rilancia invece il Movimento 5 Stelle. Il no di Atene all'Europa è un punto di partenza, commenta Vendola. Renzi ha l'occasione per riscattarsi. Proponga una conferenza europea sul debito e sulla rinegoziazione dei trattati. Infine le parti sociali. Sarebbe assurdo far saltare l'Europa per un'impuntatura, dice il presidente di Confindustria Squinzi. L'Europa sia dei popoli e non della finanza, commentano dal sindacato. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ancora la politica. Oggi il presidente della Campania, De Luca, vi dicevo, ha presentato una nuova giunta formata da 6 donne e 2 uomini, con un'agenda al suo esordio decisamente impegnativa, e poi ne parleremo, così come parleremo anche della seconda giornata in Ecuador per Papa Francesco durante il suo viaggio in America Latina. E adesso invece sulla cronaca italiana, con questa tragedia sull'autostrada A4. Erano appena scesi a controllare le gomme dell'auto e avevano sentito esplodere quando un tir che viaggiava in prima corsia le ha travolte, uccisi. I due automobilisti sono morti pochi minuti prima delle 18 oggi lungo la A4 fra Trezzo d'Adda e Capriate, vicino Bergamo, in direzione Venezia. Si tratta di un bergamasco e un albanese, carpentieri, che tornavano dal lavoro e che viaggiavano su una Hyundai completamente distrutta. Altre due persone sono rimaste ferite in maniera non grave. Parliamo di una delle più note società italiane apprezzate in tutto il mondo, che produce software per lo spionaggio digitale, che ha subito un pesante attacco informatico. Immaginate che qualcuno cominci a spiare nell'ufficio di un investigatore privato, che un ladro rubi alla polizia o che scoppi un incendio nella caserma dei pompieri. È più o meno quello che è accaduto nella notte ad Hacking Team, una società di Milano molto nota nell'ambiente della security a livello mondiale e specializzata in intrusioni informatiche. L'account Twitter è stato compromesso e sono state pubblicate su internet molte email e documenti riservati che potrebbero essere compromettenti. La società fornisce software molto sofisticati a stati, agenzie governative, di intelligence o militari per attacchi informatici per compromettere e mettere le mani sul contenuto di computer o smartphone. Da tempo Hacking Team è nel mirino delle organizzazioni internazionali che difendono i diritti digitali, che l'accusano di vendere i propri software anche a dittature che usano questi sistemi per spiare i propri cittadini. L'attacco di queste ore potrebbe essere opera di hacker che lavorano per queste organizzazioni. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia di cultura diciamo così in sofferenza, perché manca personale di vigilanza e quindi sono stati chiusi gli scavi di Ercolano, stati chiusi alle 13 di oggi a causa della carenza di personale di vigilanza, così scrive la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. In una nota dice: nell'amareggiarsi per i disagi causati ai visitatori sottolinea la criticità della situazione che da tempo ormai grava sui siti archeologici vesuviani. Per chiudere, lo sport, calcio con il trionfo della nazionale femminile degli Stati Uniti nella finale della Coppa del Mondo svoltasi in Canada. Il boato rende l'idea, non tanto della bravura di Carly Lloyd, autrice di una tripletta nel decisivo 5-2 sulle giapponesi e delle compagne, quanto del contesto nello stadio di Vancouver, dal tifo al pubblico, alla festa finale. Tutto come, e forse più di quanto accade con gli uomini. Sì, perché a livello mondiale il calcio femminile muove masse di praticanti e tifosi, sposta interessi e business, per non parlare degli Stati Uniti, dove lo sport universitario è in rosa per eccellenza. Non sorprende quindi il tweet di felicitazioni spedito dal presidente Obama alle sue ragazze al fischio finale, insieme all'invito a fargli presto visita alla Casa Bianca. Sperando che l'effetto domino arrivi presto anche dalle nostre parti, accontentiamoci per ora dell'unico pezzetto di soccer femminile finora sbarcato in Italia. Si tratta di Mia Hamm, l'ex campionessa statunitense, 2 mondiali e 2 ori olimpici vinti in una carriera da leggenda e ora componente del CDA della Roma del bostoniano James Pallotta. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Speriamo davvero in questo effetto domino, poi torneremo a parlarne. Intanto ci spostiamo sul ciclismo, terza tappa al Tour de France e nuova maglia rosa, il britannico Froome. Succede di tutto anche oggi, cadute di massa, ritiri, neutralizzazione della corsa, prima della vittoria dello spagnolo Joaquin Rodriguez, che vince sul muro di Uy la terza tappa del Tour de France, dove precede il britannico Chris Froome, che per un solo secondo, grazie agli abbuoni, è la nuova maglia gialla, il terzo padrone in 3 tappe. Si difende il nostro Vincenzo Nibali, che alla fine è settimo, perde 11 secondi solo da Froome più 6 di abbuono, arriva con Quintana e Valverde e in pratica guadagna qualcosina su tutti gli altri, ad incominciare da Alberto Contador. Il primo colpo di scena di giornata arriva quando mancano 58 chilometri all'arrivo, in un tratto di rettilineo, una carambola innescata dal francese William Bonnet. Finiscono a terra in tanti, tra questi anche la maglia gialla Fabian Cancellara, che appare subito molto dolorante, risale in bici ma terminerà ad oltre 11 minuti di ritardo. A causa della caduta l'organizzazione decide di neutralizzare per qualche minuto la corsa. Christian Prudhomme, il direttore del tour, si improvvisa così safety car, blocca la corsa per qualche minuto prima dello show di Rodriguez e di Froome. Pier Augusto Staggi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con il ciclismo ci siamo per la sintesi della giornata. Adesso man mano passo, come sapete, ai vari temi con gli ospiti. Voi continuate con i vostri messaggi al 349-238-6666, così come sulla pagina Facebook di Effetto Notte leggo diversi messaggi. Rosanna che dice: Tsipras ha ingannato il suo popolo, ha scaricato sulla gente la responsabilità di una decisione delicata e importante, non è stato chiaro nell'impostazione dei 2 quesiti e ha praticamente imposto la risposta che voleva avere. Temo sia la sua una vittoria di Pirro. Da Bruxelles gli hanno fatto sapere che con quello lì non avrebbero più avuto a che fare, quello lì, dice Varoufakis, che si è dimesso facendo anche la figura del grande eroe. Poi ci sono altri messaggi, tanti, che però leggerò tra poco. Intanto direi, voi continuate con le vostre opinioni, aggiorniamo chi viaggia tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, ancora i vostri messaggi, tanti. Domenico che scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte, Domenico Alberto dice: la vittoria del no era inevitabile, auspico l'uscita della Grecia dall'euro, la vera Europa ha dimostrato di non esistere. Alessandro dice: una vittoria così schiacciante mette in serio dubbio le proiezioni divulgate da Fondo Monetario e Banca Centrale alla vigilia del referendum, che siano state volutamente falsate per scoraggiare il fronte del no. E poi ancora i vostri messaggi al 349-238-6666, sms, continuate anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco approfondiremo la situazione greca e le possibili analisi del post voto. Intanto vi ricordo le notizie più importanti della giornata. Tsipras alla Merkel dice: domani presentiamo le nuove proposte, le banche svarono ancora chiuse in Grecia. E poi il ministro Varoufakis nell'economia, sapete, lascia il Fondo Monetario, dice pronto già agli aiuti per la Grecia. La Grexit comunque intanto fa paura alle borse, l'Europa brucia 100 miliardi e Milano chiude a meno 4,03%. Secondo giorno in Ecuador per il Papa, una folla oceanica in attesa della sua messa, si parla di 1 milione di persone. Caldo record, sappiate che fino a giovedì, e intanto il ministero attivo un numero verde per eventuali blackout. E poi De Luca presenta, il presidente della regione Campania, la sua giunta, oggi già la definiscono valanga rosa, con 6 donne e 2 uomini. Assalto hacker a un'azienda italiana che fa software per lo spionaggio. E poi una maxi caduta rivoluziona il Tour de France, Froome maglia gialla con tappa neutralizzata, poi riprende, ci sono stati 3 ritiri e Cancellara KO, insomma una specie di disastro al Tour. Vediamo invece che cos'è effettivamente questo post voto della Grecia, se è un disastro o meno. In ogni caso, vi sintetizzavo già all'inizio, insomma, un po' così a grandi linee la situazione. Sono state prima le dimissioni dopo il no di Yanis Varoufakis, il ministro delle finanze, che in queste settimane è stato un po' il volto del governo greco nelle trattative sul nuovo piano di salvataggio. Poi c'è stata una telefonata, l'avete sentito, tra il primo ministro greco Tsipras e la cancelliera Merkel, in cui il primo ha assicurato che presto ci saranno nuove proposte per superare la crisi del debito. Infine, la presidente del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ha annunciato di essere pronta a aiutare la Grecia se la Grecia ne farà richiesta. E poi c'è stato il colloquio, questo bilaterale, che è stato anche molto criticato perché è sembrato, insomma, il solito asse Parigi-Berlino tra la cancelliera Merkel e il presidente francese Hollande. Merkel che ha detto poi alla fine: la porta resta aperta, anche se aspettiamo delle proposte credibili da parte di Tsipras. In ogni caso, prima di fare un'analisi di tutto quello che è successo e che potrà succedere, colleghiamoci con la nostra Valeria De Rosa, che da giorni ormai ad Atene ha respirato l'atmosfera pre e post voto. Ciao Valeria. Buonasera Roberta, a te e ai nostri ascoltatori. Devo dirti subito intanto che non è che da ieri sia cambiato qualcosa, no. Nel senso che i greci sono assolutamente consapevoli della loro condizione e sono direi abbastanza consapevoli anche del governo che in questo momento li amministra. Questo un po' per rispondere anche all'ascoltatrice che scriveva: il suo popolo. Qui nessuno, diciamo, aveva inteso il referendum come, diciamo, chissà quale domanda sui massimi sistemi. Tutti avevano ben presente che questo era un referendum politico di appoggio o meno a questo governo. Quindi diciamo che si sottovalutano i greci se si pensa che Tsipras li abbia ingannati così facilmente. I greci non sono così sciocchi, hanno perfettamente consapevolezza di quella che è la loro condizione in questo momento, tant'è che diciamo hanno addirittura vinto la paura di perdere quel pochissimo che ancora hanno e hanno votato no, ma hanno votato no semplicemente perché hanno fiducia in Tsipras come negoziatore più che come politico capo del governo, perché poi molte persone mi hanno detto: anche Tsipras ci ha raccontato delle bugie, ma in questo momento è l'uomo che forse può cercare di farci ottenere qualche condizione migliore. Questo anche perché forse troppo spesso abbiamo sentito parlare di greci che vivono al di sopra delle loro possibilità, sì. E questo forse è stato vero in passato. Io inviterei tutti a fare un giro per Atene in questi giorni, al di là del fatto che resta una città pulita, ordinata, con tutti i servizi, diciamo, essenziali, basilari, che funzionano, è una città dove davvero tantissima gente vive per strada e dove il prendere 60 euro al bancomat tutti i giorni non è cosa che possono permettersi in tanti, quindi anche le file al bancomat sono state contenute, lo ripetiamo, perché non è che qui c'è molta gente che in banca abbia tantissimi soldi, al di là di quelli che sono ricchi e li hanno portati fuori perché hanno i conti all'estero, ma questo è già successo da tempo qui in Grecia, non è una cosa degli ultimi mesi, insomma. Quindi diciamo che questo è un paese che davvero in questo momento se la passa male. La decisione quindi è molto più tra virgolette appunto politica anche a livello europeo che non tanto economica, perché poi c'è appunto tutto il discorso che ruota intorno a Tsipras, che è visto come un governo, quello di Tsipras, molto di sinistra. Anche qui ci sarebbero da fare lunghi discorsi, perché Tsipras non è proprio un uomo di sinistra nella concezione classica del termine, è un politico prima di tutto molto pragmatico, che secondo me, nella mia modesta opinione, ha saputo sfruttare le sue carte di uomo politico nuovo rispetto all'Europa. E comunque quindi, il popolo con questo referendum gli ha dato fiducia, come dicevi tu, e quindi sì, lo manda avanti nelle trattative. Sì. Senti, le banche, ho letto, sono chiuse ancora fino a mercoledì? Le banche sono chiuse sicuramente fino a mercoledì, perché la Banca Centrale Europea non ha aumentato i fondi ELA, per il momento sono fermi, e quindi fino a mercoledì le banche restano chiuse. Poi si vedrà, anche perché domani c'è un Eurogruppo, si spera, tutti speriamo che decidano qualcosa, anche se ormai ci hanno abituato a Eurogruppo, a riunioni, vertici nei quali poi non si prendono decisioni fondamentali, e quindi poi bisognerà aspettare e capire che cosa succederà domani per riuscire a ipotizzare, a immaginare un'apertura oppure una chiusura delle banche per tutto il resto della settimana. Grazie Valeria De Rosa, poi ci aggiorniamo nei prossimi giorni, anche domani. Ciao Valeria. Ciao, buona serata. Europa 24 notte. E naturalmente siamo nel cuore delle questioni europee. Sentiamo Valdis Dombrovskis, già primo ministro della Lettonia dal 2009 al 2014 e vicepresidente adesso della Commissione europea con delega all'euro e al dialogo tra le parti sociali. Oggi alle 12 ha tenuto una conferenza stampa a Bruxelles presso la Commissione europea e ha detto: una cosa è chiara, ha sottolineato così Dombrovskis, il posto della Grecia è e resta in Europa, anche se però specifica il sì avrebbe dato un segnale positivo il sì al referendum, mentre il no rende le cose più complicate, perché dice c'è distanza tra la Grecia e gli altri paesi dell'Eurozona. The European Commission takes note of the result of yesterday's referendum in Greece. La Commissione europea prende atto del risultato del referendum svolto ieri in Grecia. Rispettiamo la scelta democratica del popolo greco. Purtroppo la vittoria del no amplia il gap tra la Grecia e gli altri paesi della zona euro. Non c'è una soluzione facile per uscire da questa crisi. Si è già perso troppo tempo e non sono state colte molte opportunità. La Commissione è pronta a continuare a lavorare con la Grecia, ma per essere chiari, non potrà essere presa nessuna decisione in assenza di un mandato da parte dell'Eurogruppo, che si riunirà di nuovo domani. Il posto della Grecia è e rimane nell'Eurozona, ma per risolvere questa difficile situazione è necessario che entrambe le parti operino in modo responsabile nell'interesse del popolo greco. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E restiamo sempre sulla Grecia, naturalmente, con il professor Massimo D'Antoni, che saluto. Buonasera professore. Buonasera. Docente di Scienze delle Finanze all'Università di Siena, autore del libro L'Europa non è finita, uscire dalla crisi rilanciando il modello sociale europeo. Perché esiste un modello sociale europeo, professore? In termini, diciamo, se lo confrontiamo con altri modelli o altri paesi avanzati, Stati Uniti o anche altri paesi, l'Europa si caratterizza per un maggior livello di sicurezza, di consumo di beni pubblici, appunto sul livello di spesa pubblica, per esempio, sulla rete di protezione sociale, la sanità pubblica, tutti questi aspetti vengono spesso indicati come modello sociale europeo, di alte tutele sul lavoro, di sicurezza, diciamo questo era un pochino il tratto caratterizzante dell'Europa. Ho usato termini al passato perché in effetti le politiche di austerità lo stanno mettendo in era un po' una provocazione, mi domanda. Senta, sì, professore, ma secondo lei questa vittoria del no, Tsipras si è dimostrato, il primo ministro greco, un eroe greco per l'appunto, oppure ha rivelato al resto dell'Europa e non solo l'Europa che i popoli non capiscono più, i popoli europei, se c'è davvero convenienza a restare all'interno dell'Unione Europea, oppure semplicemente, come dice qualcuno, un opportunista che vuole cogliere soltanto i vantaggi di stare nell'euro ma non vuole stare alle regole, secondo lei? Insomma, qui più che regole c'è in atto una tipica trattativa tra creditore e debitore. L'interpretazione di questa trattativa di molti osservatori esterni, per esempio penso a un paio di premi Nobel dell'economia piuttosto noti come Stiglitz e Krugman, ed è un'opinione che condivido anch'io, è che alla fine l'obiettivo dei negoziatori europei fosse diventato un obiettivo politico, cioè il vero obiettivo era delegittimare il governo greco in quanto proponeva delle politiche e metteva in discussione queste politiche di austerità. Da questo punto di vista la risposta di Tsipras è stata una risposta politica molto forte e alla fine possiamo dire riuscita, si è preso anche un rischio ma gli è riuscita, cioè ha fatto vedere che lui aveva tutto il sostegno politico e che quindi il suo popolo, il popolo greco, non aveva nessuna intenzione di rinunciare ad avere quel governo come negoziatore. In questo senso ha molto rafforzato la sua posizione negoziale. Tuttavia questo non so che esito avrà, perché da un lato non credo ci si possa aspettare che la Grecia a questo punto abbassi le richieste rispetto a prima, quindi diciamo che sta tutta l'Europa a decidere se ammorbidire un pochino la posizione oppure, come per esempio sento dalla Germania, a sua volta alzare le richieste, e questo potrebbe portare a un non accordo alla fine. Però dico, la partita mi sembra a questo punto molto politica da tutti e due i lati. Professore, le faccio sentire a proposito di partita un passaggio di cosa ha detto oggi il professor Prodi. Non era un referendum eurodracma. Ma Renzi l'ha scritto, ha twittato. Referendum eurodracma. In ogni caso, secondo me, si sarebbe ridiscusso come conservare l'euro. Quindi non era un referendum, come ha detto Renzi, invece, tra euro e dracma? No, questo no, anche se devo dire che il fatto che si sia votato no, nonostante le banche chiuse, nonostante la minaccia che questo comportasse l'uscita, va un po' letto come se il popolo greco avesse detto: noi quell'accordo non lo accettiamo anche se l'alternativa è che ci sbattete fuori. In questo senso gli ha dato molta forza, perché è un po' un dire: non ci spaventiamo nemmeno di quello. Già. D'altra parte la Grecia non ha molto da perdere, nemmeno in caso di uscita. Quello che ha più da perdere, forse da un'uscita a questo punto, avrebbe più da perdere l'Europa. Adesso stavo guardando da un'agenzia che in corso una telefonata tra la presidente del Fondo Monetario Internazionale, Lagarde, e Tsipras, una serie di telefonate purtroppo non possiamo intercettare in questo momento, sarebbe interessante. Senta, c'è questo ascoltatore fra i vari che scrive al 349-238-6666 che dice: sulla Grecia la vittoria del no era scontata, d'altronde è facile decidere dopo anni di mala gestione e provvedimenti spesso in malafede, e critica Tsipras, questo ascoltatore, dicendo: buttare sui cittadini la responsabilità connessa al proprio ruolo non è democrazia ma feroce populismo. Dunque io invece difendo ancora una volta Tsipras in questo senso, che lui non ha detto fate voi, ha detto io sono per il no, voi che cosa dite? Ora poi si può dire, era scritto in un certo modo, ovviamente avrà fatto di tutto per favorire la propria posizione, però i pronostici erano più per il sì, e in caso di sì, era un voto di fiducia verso il governo, quel referendum, certo. Per cui non è vero che è una posizione arrendevole o pilatesca, si è messo in gioco, è come se avesse chiesto una seconda fiducia dopo a sei mesi dall'elezione. Ha corso un rischio e diciamo che in questo senso è stato premiato con il risultato. Professore, abbiamo ancora proprio un minuto, poco meno, e secondo lei questa vittoria del no in Grecia comunque ha portato alla luce tutte le contraddizioni dell'Europa, il fatto di non avere una vera unione politica, economico-fiscale? Beh, quelle, diciamo, quei limiti sono ormai abbastanza evidenti e diciamo questa vicenda li ha ulteriormente enfatizzati, anche messo in luce un aspetto preoccupante. Qualcuno dice c'è un problema di democrazia, cioè si dice che molte delle questioni relative su cui non ci si metteva d'accordo è quali politiche attuare, perché diciamo i creditori avevano la pretesa, comunque volevano definire non solo quanto surplus il governo avrebbe dovuto ottenere, ma anche come, cioè entrare nel dettaglio, e questo va un po' contro a quelle che è l'autodeterminazione di un popolo nelle proprie scelte politiche. Quindi si evidenzia un po' una contraddizione tra la permanenza in Europa e la possibilità di scegliere entro i vincoli anche come agire, cosa fare. Appunto le contraddizioni. Professor D'Antoni, io la ringrazio, avremo modo poi di risentirci, perché di analisi sulla Grecia se ne faranno all'infinito ancora per diverso tempo. Grazie professore. La ringrazio a voi. Grazie, buona serata. Vedo ancora molti vostri messaggi, ancora sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Domenico Cimini scrive che nasca una vera Europa come deve essere, una confederazione di stati sovrani che abbia in comune politica, economia, integrazione, rispetto reciproco e interessi. Continuate con le vostre riflessioni anche al 349-238-6666, proprio questione di pochi attimi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme di nuovo, Roberta Giordano con voi come sempre sino alle 22. Guardavo i vostri tanti messaggi, anche appassionati, coinvolti sulla questione greca, che ovviamente non è soltanto greca. Dice Enrico da Modena al 349-238-6666: possibile che in Europa esistano stati con leggi diverse, un esercito proprio, tasse proprie, addirittura alcuni che non adottano neanche l'euro? Questa è la loro idea di Unione Europea? Io penso che i debiti vadano pagati, però è anche vero che è molto difficile restare in questa Europa. E poi Corrado dice: non me l'aspettavo del no e sono felicissimo, hanno dato una lezione di dignità, di patriottismo sano a tutto il mondo, non può accadere nulla di peggio di quanto sia accaduto in questi 6 anni in cui li hanno massacrati. Voi continuate con le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche al 349-238-6666 su il fatto che aspettavate o meno questa vittoria dei no al referendum in Grecia e cosa pensate che siano adesso le possibili conseguenze, le prospettive, anche se abbiamo detto che nessuno, neanche gli analisti, lo sanno con precisione. Anche abbiamo sentito le varie aperture comunque che ci sono da parte del Fondo Monetario Internazionale, da parte di Angela Merkel, leader ormai chiarissimo in Europa. Vedo anche un bel messaggio sul calcio femminile, però ne parleremo più tardi. Intanto invece vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento anziché puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti, poi andiamo sull'altro tema. Grecia, dopo le dimissioni di Varoufakis, Tsipras assicura che ci sono in arrivo nuove proposte dal governo ellenico. La Merkel fa sapere che la porta resta aperta. Domani alle 13 si riunisce l'Eurogruppo. Borsa e crisi greca, male tutti i mercati, crolla Piazza Affari, ma Padoan rassicura: nessun rischio per l'Italia che fa le riforme. Campania, De Luca presenta la sua giunta, 2 uomini e 6 donne, ne parleremo tra pochissimo. Il viaggio del Papa in America Latina, secondo giorno in Ecuador, folla oceanica per la messa. Calcio, mondiale femminile in Canada, gli Stati Uniti conquistano contro il Giappone la Coppa del Mondo. Per la Juventus, Agnelli apre la cessione di Pogba. Credo che ci sia una specie di valanga rosa. Abbiamo sei donne assessori su 8. Siamo riusciti a tutelare la quota azzurra giusto così al limite, ma insomma ce l'abbiamo fatta. Devo dirvi con grande soddisfazione e orgoglio che non abbiamo presenze rappresentative, abbiamo presenze solide. Sicuro come sempre di sé Vincenzo De Luca, il nuovo presidente della Regione Campania, si è insediato oggi, lo avete sentito, finalmente uno che parla di quote azzurre e non più di quote rosa, quindi ha salvaguardato anche la presenza maschile con 2 assessori su 8 e le altre sono 6 donne. Oggi appunto ha presentato il nuovo esecutivo, ha tenuto per sé poi le deleghe, alcune delle deleghe più importanti, quella della sanità, la cultura, l'agricoltura e i trasporti. Ne parliamo con Alessandro Barbano, direttore del quotidiano Il Mattino. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. Quindi questo era l'inizio forte, anche ironico, di Vincenzo De Luca, il quale ha detto che però tutti gli assessori non sono rappresentativi, ma devono concretamente essere capaci di ricoprire il loro ruolo. Sono tutti tecnici, no? Se non sbaglio, Barbano. Sì, sono, diciamo, quasi tutti tecnici. È una giunta che lui ha voluto tenere lontana dai partiti, in particolare dal suo partito. Il PD ha preteso di scegliere persone che fossero legate a lui da un rapporto di fiducia e di stima. Ha fatto questa scelta delle sei donne, che è indubbiamente un segnale, ma il segnale più grande è quello che tu hai detto, cioè ha tenuto per sé le deleghe principali, sanità, come è ovvio che sia per una regione commissariata, quindi di fatto non poteva che averla il presidente, ma anche trasporti, agricoltura e cultura. E cosa significa questo? Vuol dire che è evidente che una regione si fonda sostanzialmente su queste tre asset. È ovvio che il presidente esprime una leadership personale molto forte e su tutte le questioni che contano ci metterà la sua faccia. Questo peraltro lo ha detto io risponderò agli elettori, o metto in primo piano spendo la mia persona, la mia credibilità e risponderò se sbaglierò, però pretendo di decidere le cose che contano. E questa è una giunta quindi che si caratterizza per questo tratto fortemente personalistico, qual è peraltro il carattere di De Luca, certo, anche nella sua precedente esperienza al Comune di Salerno, ha avuto un tipo di gestione di questo tipo. Non si può non dire che Salerno sia stata una città ben amministrata. Speriamo che accada anche con la Regione Campania, anche perché la Regione Campania esce da una gestione non negativa, che è quella di Caldoro, ma attraverso un periodo molto difficile per una serie di congiunture di carattere economico e sociale che attraversano il Mezzogiorno e che non sono mai risolte. Certo, poi penso ai fondi europei. Uh-huh. Prego, prego. No, scusami. Prego. No, dicevo, adesso entriamo appunto nel merito dell'agenda fittissima che ha davanti De Luca. Volevo farti sentire anche che ha sottolineato che sono gli assessori, lui stesso, tutti sotto esame. Sentiamo. Partiamo. Sarà poi il lavoro sul campo, l'esperienza concreta a dirci se le cose vanno bene, se reggiamo nell'attività di lavoro. Tutti quelli che sono impegnati e saranno impegnati sono sotto esame, tutti, nessuno escluso. Quindi questo l'ha riconosciuto, ma sentirei anche un ultimo passaggio piuttosto ambizioso. Non abbiamo bisogno dell'ordinaria amministrazione, del tirare a campare, abbiamo bisogno di gente motivata, entusiasta, che voglia dare un senso alla propria attività di lavoro e voglia contribuire alla sfida che abbiamo lanciato per la Campania, essere la prima regione d'Italia. Possiamo esserlo in quasi tutti i campi, in quasi tutti i campi. Credo che abbiamo le risorse umane, le competenze per affrontare questa sfida e anche per vincere. La sfida ambiziosissima, Alessandro Barbano, visto che tu ricordavi appunto tanti problemi, tra cui anche la terra dei fuochi, la sanità, i trasporti, stipendi ai dipendenti della regione, insomma ne ha da risolvere, da affrontare. La Campania è una regione dove si vive in media 2 anni in meno rispetto alla media nazionale, quindi c'è una situazione sanitaria molto pesante che Caldoro ha ereditato e ha risanato dal punto di vista dei bilanci, non dal punto di vista della qualità dei servizi. E questa è la prima sfida a cui De Luca sarà impegnato, soprattutto quando finirà il commissariamento. Poi c'è la sfida dei trasporti, anche importante. La Campania ha una rete infrastrutturale grossa, perché è stata in qualche modo progettata e avviata durante la gestione Bassolino, poi tutto si è fermato. Oggi le imprese di trasporto pubblico sono al tracollo e la qualità dei servizi è pessima in una regione che ha 6 milioni di abitanti. E questi sono i due asset principali. E poi non dimentichiamo che una regione che ha un tasso di disoccupazione che supera il 20%, con la disoccupazione giovanile altissima sopra il 50%, è un esodo soprattutto dei cervelli verso senza ritorno verso il nord. È chiaro che non si tratta di questioni alle quali può rispondere solo una giunta e solo un governo regionale, però indubbiamente se ci fosse un governo che fosse in grado di avviare un grande processo virtuoso, probabilmente un minimo di recupero sarebbe auspicabile. Speriamo che sia così. Staremo a vedere anche noi De Luca come si comporterà e lo giudicheremo sui fatti, perché questo è l'unico modo per per valutare il, come dire, la qualità delle amministrazioni. Invece finora si è parlato solo di chiacchiere che obiettivamente avevano poco a che fare con questi temi. Indubbiamente, come sappiamo, la candidatura di De Luca è stata molto travagliata sia prima delle primarie, poi anche dopo, e con tutti gli esiti giudiziari che conosciamo, che non sto a ripetere. Allora, Alessandro Barbano, buon lavoro, visto che dovrai valutare grazie, l'operato a di voi. Grazie, a voi. Ciao. A voi. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E vi aggiorno sulla Grecia. Dicevamo che era in corso la telefonata tra Tsipras e la presidente del Fondo Monetario Internazionale, Lagarde. Bene, l'esito è stato no da parte di Lagarde, nuovi fondi senza pagamenti, no? Nuovi fondi per la Grecia senza pagamenti. Quindi la Grecia, che è sempre centralissima tra le notizie, e poi il Papa, di cui parleremo tra pochissimo, secondo giorno in Ecuador, il caldo record fino a giovedì, supportiamo ancora un po', De Luca, che ha presentato oggi la sua nuova giunta, e anche di questo abbiamo appena parlato. Non siamo in uno stadio, siamo in una folla oceanica, almeno acusticamente, quella che ha incontrato Papa Francesco oggi in Ecuador nella sua seconda giornata, è quella che entra un po' nel vivo anche per questa messa. Ne parliamo con Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Ciao Carlo. Ciao, ciao a te, buonasera a tutti. Questa messa c'è già stata? È in corso? Adesso io... No, c'è già stata, è finita da circa 45 minuti a Guayaquil, che è la seconda città dell'Ecuador. Cioè, non è la prima come numero di abitanti, ma non è la capitale, che è Quito, una città bellissima sul mare dove il Papa ha tenuto una messa con 1,5 milioni di persone circa. Il primo evento, il primo bagno di folla di questo viaggio, lungo viaggio di 8 giorni in 3 paesi dell'America Latina. Passerà anche per la sua Argentina? No, l'Argentina è previsto che ci vada il prossimo anno. Lui lo ambisce l'Argentina perché va in Paraguay nella terza tappa, quindi oggi, ieri, oggi e domani in Ecuador, poi in Bolivia, e poi gli ultimi 2 giorni e mezzo in Paraguay, ad Asunción, in un'altra città. Lì, siamo ai confini con l'Argentina. Peraltro lì i gesuiti hanno avuto, come noto, una storia molto travagliata proprio in quelle terre tra il Paraná e l'Argentina, però il Papa non va in quei luoghi. È un viaggio, nei 3 paesi, forse tra i principali paesi, periferici del continente. Non è il Brasile, non è l'Argentina, non è la Colombia, o non è neanche il Venezuela. Sono paesi un po' più piccoli degli altri, che hanno avuto enormi problemi, dittature militari, però da alcuni anni ormai è in corso un laboratorio straordinario perché i risultati sono straordinari in tutti e 3 paesi, dove stanno uscendo faticosamente ma con grandi successi dai problemi che hanno afflitto dagli anni 60-70. La povertà è diminuita, ci sono dei governi, come noto Morales, il boliviano è l'indio più famoso che c'è al mondo, quello di Ecuador Rafael Correa. Anche in Paraguay ci sono dei governi molto, dei laboratori oggettivamente sociali e politici molto importanti. Ecco, mi hai dato la risposta, letto nel pensiero, volevo chiederti proprio perché abbia scelto questi 3 paesi in particolare. Lui andò in Brasile 2 anni fa, nel 2013, per la giornata mondiale dei giovani, era stato eletto da 4 mesi, ma era un viaggio già programmato dal suo predecessore. Quindi è il paese più grande del continente e forse anche più ricco, anche se con problemi. Pieno di problemi, però oggettivamente è più ricco, è un colosso mondiale, il Brasile. E invece lui è tornato nel continente, nei paesi simbolo, proprio invece al contrario. Grazie Carlo Marroni. Grazie a te. Ciao Carlo, buona serata. E ora invece ci concentriamo sui mondiali femminili che abbiamo seguito qui a Effetto Nota, ed è per questo che tutti i giornali americani e non solo, anche italiani, ce l'avevano in prima pagina, in Italia giornali online, in Stati Uniti tutti i giornali, la vittoria della nazionale femminile degli Stati Uniti che ha battuto il Giappone. Ce lo racconta la nostra Martina Angelini, commentatrice di Eurosport, esperta di calcio femminile, che ci ha seguito fin qui. Martina, una grande soddisfazione per gli Stati Uniti, sentivamo anche di Obama, no? Il suo entusiasmo. Sì, ieri sono arrivati prima tweet di incoraggiamento da tantissimi attori sportivi, da Andre Agassi, Serena Williams, e poi appunto il presidente Obama, ieri Joe Biden, il vicepresidente, era presente allo stadio, e quindi sì, poi c'erano veramente maxi schermi un po' dappertutto, il Lincoln Park, Park a Chicago, un parco grandissimo, c'erano 25.000 spettatori a guardare la partita tutti insieme, quindi sì, grande soddisfazione. Questo grande. Per dare la misura, Martina, di quanto il calcio femminile negli Stati Uniti sia il calcio per antonomasia e sia seguitissimo. Sì, lì è considerato uno sport per le donne, paradossalmente, perché gli uomini sono più concentrati nel baseball, nel football americano, e quindi le donne giocano a calcio da sempre, fin da piccole, anche nei film si vedono spesso le bambine che giocano a calcio, lì è assolutamente normale. Quindi hanno battuto il Giappone 5-2 nonostante il Giappone fosse campione in carica? Sì, sì, era campione del mondo in carica, in una partita tra l'altro strana, perché gli Stati Uniti sono andati avanti 3-0 in un quarto d'ora, quindi sono partiti fortissimo. Perché c'è una calciatrice fortissima che ha fatto una tripletta, no? Sì, Carly Lloyd in realtà non era la giocatrice più attesa, perché lei non è proprio un attaccante pura, è una centrocampista, una delle più forti del mondo, però già aveva giocato molto bene in questo mondiale, ha fatto 3 gol, di cui uno bellissimo da centrocampo, quindi io consiglio a tutti di andarlo a cercare. Vedere. Sì. Volentieri. Senti, e poi ha fatto il giro del mondo invece questa immagine anche sui giornali italiani online, il bacio di un attaccante degli Stati Uniti che è andato a baciare sua moglie. Sì, Abby Wambach, l'avevamo nominata anche qualche sera fa insieme, lei è sposata con questa ex giocatrice che si chiama Sarah Huffman, da quasi 2 anni si sono sposati alle Hawaii, e lei fu quella che, dopo che gli Stati Uniti avevano approvato poi un po' il matrimonio omosessuale in tutti gli stati, aveva scritto: sono orgogliosa del mio paese, e quindi la prima cosa che ha fatto giustamente è andata a cercare sua moglie sugli spalti, e questo è vero, questo bacio ha fatto il giro del mondo, per fortuna, però si è parlato anche della partita e non solo di questo, perché poi c'è stato tutto un anche conto... se chiaramente dà anche il segno anche questo di come negli Stati Uniti le cose siano diverse, siano più avanti. Senti, però c'era, adesso non riesco a trovarlo, un messaggio di un ascoltatore che chiedeva: ma la nostra nazionale femminile avrà mai la speranza di riuscire a vincere il campionato del mondo? Senti, una bella domanda. A breve no, sicuramente, questo mettiamocelo in testa, mettiamoci l'animo in pace, nel senso che noi siamo molto indietro, ma più che altro parlano i numeri, gli Stati Uniti hanno 5.000 ragazze che giocano a calcio, la Germania, per fare un esempio di un paese più vicino a noi, ha 250.000 praticanti e noi ne abbiamo 20.000, quindi... Noi siamo un po', quando gioca la nazionale maschile, Roberta, ad esempio contro Malta o le isole Faroe, noi un po' li prendiamo in giro, no? Perché diciamo, noi siamo professionisti e loro nella vita fanno gli insegnanti di educazione fisica, fanno altri lavori. Nel femminile, quei paesi lì siamo noi, cioè giochiamo contro nazionali che hanno delle calciatrici professioniste e le nostre sono dilettanti. Perché c'è lavorano. Poco investimento, anche perché poi devono fare anche altri lavori e chiaramente non è che possano concentrare tutto, ma ci riscatteremo, cara Martina Angelini. Intanto ti ringrazio. Grazie a voi. Spero di risentirti presto. Viva i mondiali femminili. Ciao Martina. Adesso noi ci lasciamo brevemente, poi ci ritroviamo alle 22.